una cosa qua, adesso stavo provando a vedere. Io sento un rumore se qua. Ma vado avanti io, ma sto facendo solo una cosa. Che la vicenda non vuol giù adesso. Ma hai fatto, l'hai aggiustata? Non so, non riesco a contarla, c'è problemi, non so se hanno diretto di sopra, noi adesso lo devo vedere. Ma la modulazione è buona, è poco? Sì, che è buona, è perfetto. Ma non sto usando neanche quello che uso sempre, questo è un Alfa Jet Arix Pro. E questo va bene, perfetto, non è che fa male, no? Una buona. Prova a usare quello esterno, è quello lì, è quello che l'hai visto anche tu. Bene, funziona, la funzione come la parecchio. Senti, questo qua è. Già funziona bene. Tutti vanno anche noi adesso per fare la posizione, quindi. E così lo provo, vediamo se si può modificare, se no pazienza, se la prendiamo in Napoli. Anche forse è meglio non lasciarlo così com'è, tanto già andiamo a fare che 200 canali qua. No, già c'è la versione export. Ah, non ho capito. Versione export, che c'è il canale, 120 canale. E allora già si può modificare. Se c'è con la esportazione, soltanto con una salvatura, qualcosa del genere, si può modificare. No, praticamente sono fatti così questi nuovi. In questi qua, in queste versioni export. Ce l'ha anche questo qua, Europe, però non. Non mi ricordo che c'è questa se c'è cosa, attenzione, la telecomando, le ascolti, parla tu che forse ti ascolto io. Sono un bambaccio streamer, sento che sto parlando, però non riesco a aprire un tubo. Sì, un bambaccio, forse ti ascolto la... Giuseppe, Giuseppe, ascolti tu. Che per salito, bombolo, prova a parlare tu, cioè prova a chiamare tu al telecomando. Io lo sento tanto meno, non lo sento proprio, ho poco. Solo perché sei più positivo, sento lui. Allora, facciamo la prova, però non lo potrei FM, a prese con te, vai. Antonio, vai, vai un attimo l'FM. Se mi ascolti ora, giusto? La modulazione guarda è bassa, ti posso dare radio 2,5-3, però intanto in FM arrivi perché raddoppia con lo, io lo sai, con questo tipo di apparecchi. Comunque ti ascolta molto bene Luca, che è entrato, avanti Luca. Passa un po', aspetta. Ok, grande, mi senti? Sì, Arturo, arrivi benissimo qua. 9, 10 quasi, più 4, arrivi bene. Diciamo che un po' di fluscio sotto, ma comunque va bene, dai, è comprensibilissimo, non c'è problema. Dai, hai provato un fatto, dai, prova. Un po' Antonio, però devo non prova, se la aumenta un po'. di radio. Va bene, però io a farlo andare così, aspetta. Ok, io un po', sei più pulita adesso. Oh, prova. È più pulita, vero? Confermi. Ma si va benissimo, non c'è problema. Già va anche il mio, Olu. Adesso come ce l'ha pagato questo apparecchio? L'ho dato le monete tutte da un euro. Cioè? Praticamente ho vinto la macchinetta, mi è giunto uno. Quindi 5 minuti sono andato a Fusaro con le monete in tasca, per ho pagato tutti quanti le monete da un euro. E quanto hai vinto? 64. E la tua? E quello l'hai pagato? Me l'ha lasciato 63, scusate, 65, me l'ha lasciato 63, era proprio quell'esposto, era. Però sono contento, non ha niente di piccolino, non ha niente di particolare, però modula bene, dai. Ascolta, Ok, chiama la chiave, dillo, lo vedo. Fayette Airex Pro, il particolare, non c'ha smitta, non c'ha niente. È proprio normale, semplice. La Fayette? Airex Pro. Aspetta, dimmelo piano, Firex. Ora, A, R, S, no, aspetta, E, A, R, E, S, e poi c'è scritto Pro. No, aspetta, tu dimmelo piano piano. A, A, R, E, S, Pro. Piccolo menu, è proprio piccolo. Ares, allora la Fayette Ares Pro multistandard. Ecco. Se trovo, aspetta. 69 euro qua. È bellino. C'ha il tastino, vabbè, volume, squelci, poi c'è un tasto AF, A barra F. La scansione è il canale di emergenza. E l'up down con la tasto, non è manopola. È bellino. Sai lo dico a mio fratello che si compra questo qua. Quanti canali ha? 40, però c'è anche la versione export. Non è a 120. Oh, cioè, Olu, per come è, cioè, non si può pretendere tanto. È piccolo, te lo metti anche dentro il cassettino. Ah, ma che c'è, proprio piccolo. C'è anche bene, però un po', grode. Cappa Luca, mi senti? Senti, mi ascolti? Cappa, grode. Aspetta un attimino che tocco la modulazione, mi dici se è il suo meglio. Ehi, ma sono qua, comunque ti ascolto molto molto meglio in FM, in AM. Giuseppe, avvisi. Attenta, Giuseppe. Cioè, quando vai a saltare a mare, Antu? Oh, Luca. Ehi, Rode. Guarda che sto aumentando, se mi dici se va meglio, aspetta. Prova. 1, 2, 3, 1, 2, 3. No, si prova stesso. Aspetta che tocco la modulazione un attimo, Aspetta, guarda. Allora, devi praticamente andare in modulazione e mano a mano chiudere e aprirla, così vediamo un po' se rende o meno, vai. Guarda un attimo, aspetta. Così com'è. Vai. 1, 2, 3, 1, 2, 3. No, si prova lo stesso, tu. Sì. Prova del negativo, aspetta. Aio. I su da zero. Tanto mi senti? Mongoli. Guarda un po'. Ma che ti sento, Luz, sento bene. Poi ho preso questo e ho preso anche lo Zeus. E quello lì c'ha lo smitter, il digitale, cose di modulazione. E un schermo LCD, tutto blu. Capito? Quello lì costa di più però, Se la Fayette Zeus. Luca. Ah, pardon, aspetta, Non ho capito che sta facendo così un attimo, aspetta. Guarda, tu mi senti ancora? Grode. Luca, mi senti? Ehi, Grode, mi senti? Aspetta un attimino che aumento. aumentato rispetto a prima? Ah. Aumentato rispetto a prima? No, negativo, si può mostrare il salto, per lo meno io ti ascolto un po' disturbato sotto, ecco. Aspetta un attimo, che aumento. Guarda così, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vai. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ma leggermente più forte. Aspetta un attimo. Guarda così. È uguale, mi sembra più fortina adesso. Aspetta che aumenta ancora, Guarda un po'. Prova. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ma c'è tutto lo stesso. Aspetta, che giro di più, datemi 2 secondi che giro proprio, sto girando la ruota, no? Guarda un attimo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ma tu se lo vuoi girare bene? Aspetta, gli do un po' più di potenza, forse ce l'ho. E altro lo sto vedendo qua, CB Baracchino, la faiette 0,27 mega, è grigio, Guarda un po'. Nero ce l'abbiamo, no? Vabbè, ce ne sono diversi modelli. Il blu è il coso, come si chiama? Aperto! Il quadro, dai, uno schermo LCD tutto blu. No, va bene anche quello, Via, aspetta un attimo, Mumburi. Vai, grote! Guarda un attimo, ora, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Non sono bugiato, va bene. Mi sembra di andare più avanti alla modulazione, però va bene, dai. Aspetta, fammi fare altre mezzo giro, aspetta, guarda, lo giro, Guarda un po'. Vai, guarda. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ascolta, guarda, facciamo una cosa, aspetta. Così me ne rendo di più. Commuto malacchino, aspetta. E cos'è successo da queste parti? Cosa? Che è Antonio Core. A Roger, ben sentito, ben ascoltato. E ok, passiamo, Anto. Ce la messa anche Luca. Passare a Sandro. Non riesco a tirarmi fuori. Ok, dai. Ma, Bombo. Tappa. Attenzione, Bombolo. Oh, avanti. Ciao, Bombolo, Sandro, Paolo Torres. Ciao, Luca. Ciao, Sandro. Ma, sto uscendo. Prova. Sto uscendo. Luca, picchi negativi c'hai? Ma l'FM fa negativo, non so, questo è il barracchino. Vediamo un po', grosse. Guarda un po' se mi ascolti. Ah, questo ti ascolto, Santiago 3. Parla. 1, 2, 3. Comunque ti ascolto, non c'è problema, dai. Ti ascolto meglio col capo, però, Aspetta un attimino, guarda se girando così migliora. Così migliora? No, c'è proprio lo stesso, non tu. Non so come ti ascolta Sandro lì a Papatango. Avanti, Sandro. A te il microfono, vediamo un po'. Perché lì in coordinata è fatta molto, Antonio. No, da parte mia ascolto benissimo, Anto. 9 più 20, radio bellissima, bella chiara. Ascolto un po' bassino, Bombolo. Ciao, Bombolo. Sera, Sandro. Sandro, vai, mi ascolti. Perfetto, Lu, una telefonata. Sto usando il baracchino per vedere un po' come sentivo ad Antonio. Vabbè, dai, commuto con l'altro, va. Oh, Antonio, ma sei in macchina o stazione fissa? Antonio, se sei tu non stai uscendo, Un attimino, guarda se adesso esco, guarda adesso. Capo, adesso sì. E avevo troppo girato la modulazione. Allora, la modulazione va lasciata così. Come sto arrivando? Va bene, chiaro, limpido. Aspetta che ti do una girata di potenza, a vedere, Mi sto prendendo la LG. Guarda, così come sta arrivando. Sempre uguale. Allora, questa cosa non serve, dai. Vabbè, lascialo così, Anto, dai. L'ho ripreso con l'altro, sa. È più pulito e tutto. Bene. No, va bene. Qua in FM è tutta un'altra cosa. Ciao, 9.40, sì, qua avete fascia di tutto, se dovessi col K. 9.40 la radio a tutto andare. È una bomba. Adesso non ho anche un po' più watt. 5 watt sta andando, Ce la porto. Vabbè, 5 vanno bene, lascio poi scaldare troppo. 50, arrivo io. Se andava già. Sì, tu sei 50, tu. Tu ne sa, non è 9.40. Ma si, a papà tango, sa. Ehi, sono Giovanni Torres. Ma anche a Bombolo lo ascolto, 9.20, solo che la radio è bassa, o Bombolo? No, bassa è la radio. Vabbè, sto usando un apparecchio normale, dai, magari in distanza un pochettino se ne va. Ho capito, vabbè. Dimmi a tu. Ti volevo chiedere, ma di questo ponte ne possiamo parlare? Di questo ponte, mi hai detto che ieri vi stavo ascoltando, che su quel 140 si può mettere un ponte, siccome ce l'ho anch'io, ne ho due. No, ma aspetta, io ho fatto un piccolo ponticello dietro la guida di un tecnico, diciamo che ormai conosco da anni e anni, dove di solito io mando gli apparati, diciamo, mettere a posto. Però questo ponte sul modulatore io l'ho fatto sullo 757 dell'IAISO. Ah, no, negativo, scusami, allora sono entrato a metà discorso, Allora, sui K 140, 440, 680 e così via, negativo. Lasciarli così come sono. No, perché io gliel'ho girata il make again, anche con la vitina che c'è dentro gliel'ho messa a bomba, la LC è aperta, quindi più di così non si può fare. Ho capito, ma ascolta, sul 140, tu adesso 140 stai usando? No, negativo, sono in barra mobile, sono a Platamona, sto usando una specie di catafalco, Ah, ho capito, va bene. Guarda, sul 140 l'unico mic è da abbinare, e poi Luca già lo sa, l'unico mic affidabile, diciamo, per natura è l'MC60, non ce n'è altro, guarda, io ho provato altri mic, l'MC60, io adesso qua per dire sto usando l'MC60, vabbè, questo è 440S, vabbè, un po' diverso, però siamo lì, Sono d'accordo con te, ma a metà, nel senso che c'è anche l'MVP5 modificato che arriva bene, che si abbina bene. Positivo, questo sì. Poi stiamo parlando sicuramente della cioccolata e di un'altra cosa, però a livello di costi stiamo parlando di un quarto di differenza, capito? Ho capito. Poi l'MC60 è il top, il meglio esistente. Ho capito. No, ma guarda, c'è anche l'MC85 da abbinare, che fa molto molto bene. Diciamo l'MC85, diciamo, c'ha i toni alti, bassi da regolare, comunque su questi apparati non ce n'è, è solo questo. Si può abbinare anche benissimo l'MP4, l'MP5, però la modulazione non è, guarda, come l'MC60. Tutto lì. Va bene, signori, dai, io ne approfitto, vi lascio. Buona giornata, se coincide anche tardi, dai. Ciao Bombolo, ciao Antonio, ciao Luca, dai. Ciao Sandrino, ciao a tutti, buona domenica, ciao. Ehi, ciao pure a te, qua. Ciao. Quando parli di MC60 ti metto lì il cappello. Ciao Antonio Grode, ciao Lugariello. Ah, tanti mi faccio tu. Anni mi sta arrivando, vattene via. E beh, torre di controllo. Oi, Antonio Grode, e me. Sei andato a vedere la macchina? Un attimo. Oh Claudio, guarda che sul mic dell'MC60 gli ho messo la calza, la calza rossa. Metti la bandierina italiana, capito? La bandierina italiana come faccio io mettere. Sì, sto scendendo la Nulvi, Antonio Grode. Ho trovato un po' di traffico, ma le ho viste stamattina le macchine già alla partenza. Ma non ho avuto modo di fermarmi. Comunque è tutto a posto. C'è un caldo a morire. Adesso mi intano a casa e noi scioglio battuta lì, già tutto acceso qua al fresco. Ciao Lugarie, cosa c'è? Lugarie? Lugarie? Oh, oh là, ma se no, se mi stavi dicendo non sei andato. Dove? A vedere le macchine. No, ma se tu puoi vedere quelle macchine, ma quella è una Ruggero. Ma di Ruggero? No, siccome ci stavamo parlando stamattina con Falchetto, dice che dovevo andarci. Pensavo ci fossi passato anche tu. Che sto lavorando tu? Io sono una macchina da soldi, non una macchina da gara. Stavo lavorando, finito adesso. Ho visto, non l'abbiamo sempre fatta la buona di oggi, che con le manifestazioni che ti dicevo tempo fa come assistente amatoriale, ma non mi interessa più, stai lì tutto il giorno al caldo, per dare i tempi, per dare il passaggio alle macchine, va a 50 euro, non me la fotti più nulla. Ma di oggi, mai fatti ieri, l'abbiamo vista una passare, hai visto? Visto, stavamo parlando, infatti, perché ieri sera dovevamo andare tu. C'erano le prove ieri. Me l'ha detto Falchetto, ma come mi stai ascoltando? Riesci a tirarmi fuori bene? UNFM, segnale 9, dove sei? Giù al mare. Sta Roger, però c'è un coso, una sarbettina. Segnale 9, UNFM, non ci sono problemi. Ottima radio, ottimo tutto, poi UNFM queste ricevono e trasmettono alla grande. Ah, mi hai detto il quarto lo conoscevo? Negativo, per me è sempre un piacere sentirlo. Adesso mi avevi disturbato il questo, Luca non c'è. Dimmi, cosa c'hai? Cosa è successo? Mi ci facevi di tutto, Slavo. lo sai, è 140, 140, Lugarie. Questa è quella bella vetta che rimane sempre ferma, ma ogni tanto bisogna farla andare, è ferma. È schiereggia forte. Sì, insomma, quasi la doppia V, ci manca poco. Faccio vedere un po' tu se sta arrivando basso, no? E saranno 10 watt, 15, no, viene anche, ma sto dicendo, 8 watt. Questo, guarda, sulla T250 ti dico solo che in scala 200 sta segnando 150 watt. Qua, 10 watt, aspetta che vediamo un po', guarda, poco a poco aumento, guarda, guarda se sale, vedi sale adesso. Sono saturo, boh. No, non sei saturo, sei dove c'è il 50, tra il 50 e il 60 tu sei. Aspetta, poi lo abbasso, sono scaldato troppo. Aspetta. Ecco, ottengo così, dai. Tu sai, 950 qua quasi. Avvicinate, boh. Vabbè, arriva benissimo, eh. No, la radio è uno spettacolo. Quelle radio lì non scherzano FM, poi quella soprattutto, 44 invece a lui, no, perché era quella che gli ho fatta avere io, ma una radio che è sempre andata bene. E vedi, la gemella che ho io invece in FM non va come quella lì. Spinge ma non spinge come quella, c'è un qualcosa ancora da fare con la radio, ma non mi interessa, intanto FM non la uso. Lo uso solo in AM, 440, 430, 140 li uso in AM, gli altri grandi li uso in banda laterale. E quindi Antonio Grotte, ti stai scaldando i muscoli al mare? Scappa, ma non hai voglia di scendere in spiaggia. Negativo, siete, anche se oggi si sta benissimo, si sta alzando un po' di maestrale, però dovrebbe reggere fino almeno alle 2. Ma io ho fatto la Nulvi, se non è Nulvi andare, poi ho fatto Nulvi. Oggi la rientro, ho un'aria calda che non si può, ho fatto tutta la strada con l'aria condizionata accesa. A parole, no, già si sente che c'è aria calda rispetto agli altri giorni, ma poi adesso qualsiasi zeppero di vento che sia un po' tipico sembra aria calda rispetto a come era prima, capito? È positivo, vabbè dai. Non c'è problema, io ho fatto qualcosa da fare a casa questa sera, per non ammazzare un po' il tempo, qualcosa da trascrivermi al computer, così domani sono un po' più libero, però me ne sto a casa. Infatti mia moglie con mia figlia ci sono andati qua all'Uvangazzo alle piscine, proprio per non scendere al mare, e io sono rientrato adesso, il pranzo è già pronto, pranzo mi sdraio un pochino, poi stasera mi è andato a fare qualcosa qua in stanza al computer, insomma. Ma è troppo fresco, Antonio, non ha Giovanna da Luco. Ma il vulcano l'hai visto stamattina? Certo che sì, noi tutte le mattine ci vediamo, io vado rientro, perché l'ho trasato un po'. Sono passato a trovarlo, abbiamo visto quel microfono di alto io, tenne più tre, che c'erano due fili staccati, li abbiamo già posizionati, adesso si risolderà. E così userà anche lui il tenne più tre con quella radio che c'è lui da stanza, diciamo, senza ecco. Per la notte, così lo sentiamo forte anche lui. scappa, non sto riuscendo a trovare però quella cosa che mi hai consigliato. L'ho vista, mi sono innamorato e adesso non riesco a trovarla. Niente, Leo, non vieni qua se attacchiamo un po' al computer o qualche, magari, qualcosa in più che ti può servire di come si dice, qualche, come lo dire, in fretta. Magari qualche indirizzo, qualcosa proprio giusto dove puoi andare a colpire di netto e vedere un po' se ce l'hanno. Ma se guarda, ho telefonato alla Marcucci, questa qua è gentilissima, la segretaria mi ha dato i numeri di tutta Italia dove vendono quelle cose. Me li sono girato quasi tutti, niente, non hanno fondi di magazzino, è andato a Roma con l'apparato. Luca ne avevano bello, simile a quello che ho io, 2775 della Icom, dual band, molto bello, l'ha venduto al suo prezzo, però molto, qualcosa in meno di questo, era veramente un affare, ma l'ho operato proprio pochissimo, abbiamo fatto qualche passaggino con l'LPD e basta. Vedo un po' a chiedere a Massimiliano Archimede, perché me l'aveva fatto avere lui questo, sinceramente, te l'ho detto. L'aveva comprato lui sul continente, ho fatto arrivare dal continente e poi messo dentro la scatola, mai usato. Capito, che sono andato anche da sua per vedere come cose, l'ho vista, è bellissima questa radio, molto bella, la sto vendendo. 220 euro, l'ho comprata al volo, proprio immediatamente, perché era dentro la scatola, mai usata. Ma il prezzo suo qual è? Credo che sia 280-270 euro, una cosa del genere, proprio... è quello il prezzo dei veicolari di quella stazza di oggi, capito, nuovi. Io lo vedo su eBay, 200 euro di 20 anni fa, io ne ho 4 di 20 anni fa, sempre della ICO, 1125, 2008H, il 271H, il gemello di questo che praticamente è il base VHF, ma stai lì a prendere 300 euro di 20 anni fa quando con 250 euro la compri nuova. Ma no, magari il problema è che non la compri più nuova, perché è andata talmente a ruba che il prezzo evidentemente era troppo basso anche la nuova, capito? Anche perché il risultato che puoi tirare è ottimo, hai un dual band con i wifi separati, fronte retraibile, doppio display, doppio colore, c'ha 50 watt da una parte e 50 watt dall'altra, puoi fare U e U, V e V, V e U, V e U, U e U, insomma puoi fare un casino di Gesù Cristo, c'ha tutti i suoni subaudi, è completissimo, c'è un menu e un sottomenu allucinante. E soprattutto solo il microfono, perché io l'avevo comprato una volta per inserire al 271H, quello con la tastiera di TMF, che solo il microfono costa 85 euro, più IVA. Quindi quando accende la radio si illumina tutta la tastiera, e io per la macchina è utilissimo, proprio ci ho fatto alla grande, perché comandi tutto al microfono e quindi non hai problemi di stare cambia che ti cambia, capito? Bellissima radio, quando la vedi dal vivo mi dirai, claro, avevi ragione. Ieri eravamo in fretta, ci siamo lasciati così, ma capito, adesso è l'occasione che abbiamo qualche sera libera e vieni qua a farci due chiacchiere di persone a vedere quello che dobbiamo vedere, che ti rendi conto, veramente è una bellissima radio, per qualità prezzo è una bellissima radio. Adesso se provo a cercarla in Germania, capito? Non è solo la Marcucci che mi pare che abbia Icom, perché la casa madre è sempre la Marcucci, però puoi chiedere anche alla IAESU se, sempre per quello che ti ho detto, per il 7008, che è simile a quello, però anziché, adesso non so se, io avevo il 7007, tu mi hai detto che il 7007 non lo fanno più, fanno il 7008, bisogna vedere se il 7008 è dual band o bibanda. Ma no, credo che sia il 7008 sia bibanda. Quindi non ha il doppio display. No, negativo, ascolta, mi sono passato molto il segnale, che adesso ho messo la scarpetta ridotta. C'è sempre segnale 9 qua. Ma perché mi sta scaldando l'antenna, capito? Ma poi sei col portatile, no? No, negativo, in DM. Ah, no, ho visto che hai messo l'antenna in quella macchina, ma dove ce l'hai? In coda dietro? No, negativo, è di quelle piccole simil radio. Non ho capito. Poi in quelle macchine ci va sempre sul lato o sul cofano posteriore. Sì, sul lato, diciamo che è più discreta, non si vede neanche che è una 27. Anche un mio amico mi faceva con la macchina simile così. Col tetto apribile aveva l'antenna sul lato. Va bene. Ok. Tutto qua. Comunque, la giornata sembra bella. Così ci facciamo qualche cosettina. Avevo intenzione di salire sul tetto e dare un'occhiata, vedere un po' se c'era qualcosa da fare, ma avevo un caldo allucinante e non avevo nessuna intenzione. Ma ti stavo dicendo, comunque se senti qualcuno che si sta liberando di un quadribend, tienene conto. Si è arrivato in ritardo, io te l'avevo già accennato, però l'ho dovuto passare. Io 706 MK2G l'ho dovuto passare, era un quadribanda. L'ho dovuto versare perché ho preso appunto quello grande, quindi ho versato quello, se no faccio la colazione veramente della radio. E adesso con il nuovo 910H prenderò quello, però non è un quadribanda, ma è una radio che mi serve per fare VU a 100 watt, capito? E gli altri le tengo tutte di scorta, perché c'ho anche gli altri ICOM base. Poi quando le vedi ti accorgi che radio sono simili, un po' più grandi del 440, diciamo, del 140, con la stazione un po' più alti, però sono delle radio veramente ottime. Esatto, non sono reso conto, sicuramente in questi casi la marca non è acqua, capito? Decisamente sì. No, in modo che su, io ne ho preso uno usato a poco e mi ha fatto avere una persona che gli erano venduta come baracchino e invece è andata a cedere ed era un WKF ed è uno standard di vecchia generazione, però una radio eccezionale, e di quelli secondo noi veicolari quando vuoi iniziare, tu hai tanti creare problemi quando vuoi tu iniziare a fare la tua attività del radio, qua ce n'è quanto ne vuoi, soprattutto di quelle WKF ne ho quanto ne vuoi, veicolari e non, capito? Quindi no, non è quello il problema, l'importante è arrivare a quell'obiettivo che tu sai e poi si vedrà, però visto che già hai un obiettivo che è quello di avere un dual band, è bello già iniziare a cercarlo. Peccato è quello, io pensavo, quando ti ho dato la sigla, pensavo lo facessero ancora, invece evidentemente è nato e morto, perché è andato completamente a ruba, ripeto, qualità prezzo, è molto bello ed interessante quella radio. Infatti, tra l'altro chi ce la se lo tiene, perché in vendita ce ne sono davvero pochissimi e quei pochi che ci sono non se le fanno pagare, hai capito? Quindi adesso provo un attimino a vedere se le trovo o in America o in Germania, perché in America con la serie del dollaro sicuramente costano di meno. Sì, qualcosa in meno sicuramente sì, però quando lo trovi a 195-198 euro, va a 198 dollari, siamo intorno sempre a quella cifra, dovresti trovarlo per andare bene a 190 dollari, allora sì. Beh, no, 190 dollari sono 150 euro, anche di meno. È vero che il dollaro è meno, quindi, no, sempre dico così, no, e allora è così, allora lo trovi molto meno, perché un radiomatore l'ha comprato simile a questo, però non il 27-25 della ICO, ma il 27-70, che è simile a questo, solo che ha una funzione in più, adesso mi ricordo quale, e l'ha pagato 198 dollari. 198 dollari glielo prendo al volo, il problema è che questi bastardi si fanno pagare la spedizione come se te lo dovessero portare loro a piedi, capito? Perché ti chiedono 60 euro, se non anche di più. Dammi un'altra sigla, quindi questo qua è il 27, mi hai detto 27,70. Sì, questo che ho io è l'IC 27,75, quello là era il 27,70 e l'ha pagato 198 dollari, stai attento però, l'è costato mi pare 38 o 48 dollari per sdoganarlo. Capito, vabbè, ma quello è... si può girare. Oh, non lo so, questo è quello che mi ha detto lui, ecco perché ero convinto che fosse uguale il prezzo, invece il dollaro è leggermente inferiore. E quindi insomma siamo intorno ai 165 euro, 160 euro, dai, più l'addoganamento. l'ha pagato sempre meno di quanto l'ho pagato io. È l'IC 2770. Adesso lo cerco un attimino. Sai, si sono fatti i furbi i gialli su queste cose, sugli sdoganamenti. E qualsiasi cosa tu compri a qualsiasi prezzo ti mettono sempre 10 euro. 10 euro perché al di sopra dei 20 iniziano, o meglio, al di sopra dei 15 iniziano a tartarti. Al di sotto no. Sì, questo c'è infatti, sì, questo mi hanno già detto che serve questa persona che compra molto fuori. È arrivata una radio da Tokyo. E quasi quasi per sdoganarlo ci voleva più di quanto era il prezzo effettivo della radio. Caffa, allora ti siamo voglio, però rischiano, perché se dovessero perdere il pacco, allora gli danno 10 dollari, capo 10 euro. Allo sdoganamento praticamente viene dato questo rimborso di 10 euro. Ci chiede questo, loro devono dichiarare quanto è il pacco alla partenza. Nel momento in cui arriva il pacco, alla dogana, se 10 euro non te lo fanno, non ti fanno pagare lo sdoganamento. Se però malauguratamente gli dovessero perdere il pacco, succede che allora il massimo che gli possono dare è il valore del pacco, cioè 10 dollari, 10 euro. E quindi sono fregati, loro devono sperare che il pacco non venga perso. E roba la matti veramente, non ci picchia. Però alla fin fine tu prendere o lasciare, perché se non fai così il pacco non ti arriva, non te lo mandano. Esatto, lo so, ma loro realmente lo fanno per te, perché loro se ne possono fregare, no? Loro dicono, vabbè, ti spedisco il pacco, dopo io ti arrangi. Come è successo lo stesso, io avevo vinto una cosa, un'asta su eBay, ed era, non mi ricordo, tipo 65 euro, 65 dollari. Io pensavo, l'avevo già pagato, quando è arrivato il postino dice c'è da pagare un pacco, da pagare, e lo sdoganamento, anzi addirittura mi avevano telefonato dalla dogana di Roma per chiedermi cosa c'era adesso. Non lo sai, anche questo mio amico continua a citare lui, perché è uno che ordina molto da fuori, li hanno non rovinato ma quasi, li hanno aperto due pacchi, dove dentro c'erano due radio, e poi li hanno praticamente richiuse per vedere se dentro giustamente c'è roba, non so se questa cosa è fattibile o meno, questo non è compito mio giudicare, però poi li hanno richiuse, non hanno messo bene l'involucro che praticamente l'azienda che ha spedito ha messo davanti al frontalino per gli urti e per le cose, un pezzo di polistirolo di quelli grandi. Era spostato, nel viaggio ha preso un urto proprio all'angolo e gli ha schiacciato un potenziometro e ha fatto la cosa di risarcimento danni e non gli hanno rimborsato niente. Dice che il pacco era completamente sigillato, invece è stato aperto. Ma come infatti succede questo? Se tu guardi, a parte che lo controllano con la camera, come si dice, quella, comunque fanno un buchino e si tirano una telecamera per vedere realmente cosa c'è. Dopodiché, quando tu ricevi questi pacchi, devi sempre scrivere, soprattutto da corrieri nazionali, si accetta con riserva, pacco integro, ma si accetta con riserva. Se no, se il pacco integro è dentro il passaggio, non ti rimborsano niente. E lui è arrivato, sì, funzionanti tutti e due, però lui si è accorto perché quando, in pratica lui era lì, era fuori, li ha visti, per non portarsi appresso, gli ha detto, sì, spediteveli voi, non ci sono problemi. Quindi lui le ha viste le radio, le ha anche provate, esteticamente le ha visto che erano tutte in ordine. Quando è arrivato al pacco si è accorto che il potenziometro del squelci volume era leggermente piegato, quindi c'era un colpo nella cassetta. Anche qui ha fatto bene i controlli e si è accorto che l'involucro che era stato messo, che era stato sigillato eccetera, era stato aperto. Quindi la scatola completamente riaperta e richiusa in maniera non eccessivamente ordinata come doveva essere, capito? E ha fatto rimborso di potenziometro, costa 25 euro, 30 euro. Lui dice, scusa, se a me la radio mi arrivava rotta del tutto, cosa dovevo fare? Ha fatto richiesta di danni e ancora non le hanno rimborsato niente, anzi, per meglio dire, gli hanno risposto che, come ti ho detto prima, la scatola era completamente sigillata e che loro non rispondevano di niente. Invece è stato contattato che il nastro non era più quello originale, ma bensì del nastro normale di pacchi. Aspetta un attimino, mi si sta saldando l'antenna alla base, se spengo così, sentirò se... antenna e si è passato da 9 a 5, ma ti ascolto perfettamente, non ci sono problemi. Senza niente, hanno la potenza diretta, assorbe 13, 14, 15 ampere massimo, ma in VHF, che di solito, allora questo che ho io è 35 watt in VHF, cioè 50 watt in VHF, 35, 40 in UHF, e il picco massimo di assorbimento che ho visto allo strumento mi pare che siano 11 ampere, quindi ce n'è per i bocci, però anziché prendere la 20 lo prendi 25, non cambia niente, mi pare che sia 10 euro di differenza, 49-59. No, addirittura io voglio prendere quello da 45, però ti stavo dicendo, è normale che sul K, sul 140, va in l'amperaggio tende a scendere in modulazione? No, deve salire l'amperaggio, perlomeno i miei salgono tutti. I miei, il più piccolo che è questo, il 140, però io lo chiamo piccolo, ma è assolutamente la bestia in assoluto, perché ha 150 watt in FM. E 120, 130 modulati e picco in AM, assorbe 16 ampere. Sì, ma quando parli la lancetta tende a scendere o a salire, quando parli, cioè tu schiacci la portante e sale, a un certo punto inizi a parlare da qua, sale e scende. No, allora di assorbimento di portanti muti il mio ne ha 12, quando parlo sale a 16, perlomeno le mie radio sono così. Poi non lo so perché la tua è in quella maniera, dovresti portarla qua e la colleghiamo al mio. Allora ti dico se è un problema di radio o un problema di alimentazione. A fare Roger, dai, là. Io vi saluto te e Salvatore, sì, se non sbaglio. E vado a fare carica, ci sentiamo alle prossime che si coincide, ma ti ripeto, dalle 4, anche forse prima siamo qua, dai. Buona carica batteria quando la farete. Un abbraccio come sempre, ci sentiamo stasera, sì, io sono a casa, quindi avremo modo di riascoltarci sicuramente, non presto perché mi faccio un riposino al fresco e poi sarò in radio tutta la sera, da qualche parte ci sentiremo, canale dove c'è gente che posso parlare sicuramente non ci stanno problemi da parte mia. Ok, microfono per Salvatore, così ti saluto, vai Salvatore. Antonio, buon proseguimento. Stasera farò un salto anche io da quelle parti ad accompagnare la moglie e la bambina, poi ritorno qua, qui in radio, e passerò pomeriggio se ci riesco a modulare. Buon tutto, buona carica, Claudio. Ciao anche a voi, ciao. Ciao Alberto, buona carica. Ok. Beh, in giornata è così, io Salvatore, non è che le donne qua sono vicino a casa, qua all'Uvangato, tra le piscine. Giusto per non affrontare traffico, caldo, eccetera, eccetera. Sono rientrato poc'anzi al lavoro, ma c'erano ancora le macchine lì, vabbè, c'è la Buna di Osero, quindi un po' trafficata, ma anche stamattina quando ho fatto l'altro giro di perlustrazione ho visto che la zona del mare è abbastanza carica oggi. Giornata è bellissima, c'è un caldo allucinante, ci sono 26 gradi. All'interno qua a casa, immaginiamoci fuori, ce ne saranno minimo 34-35, perciò è una bellissima giornata da stare al mare, divertirsi, però le donne hanno preferito stare qua in piscina, tanto è 10 euro tutto il giorno, ma credo che ritornino nella serata sicuramente. Ok, quindi tu vai, porti le donne al mare e poi te ne risali al fresco. È un buon risultato, esatto. Sai cos'è? Che c'è il problema dei parcheggi, per cui vendono loro, poi devono perdere un sacco di tempo per trovare il parcheggio. Solitamente finivano col metterla nella strada, nella comunale. Loro vanno inevitabilmente sulla bianca, e quando non c'è parcheggio lì, quindi segue e poi si mette lì nella strada comunale, quella che poi parte di Santo Torres e parte del comune di Sassari. E se tu la metti già 10 metri verso il comune di Porto Torres, corri il rischio che passino e mettano una valanga di multe a tutti quanti. Cosa che meno male non è successo ieri per la parte del comune di Sassari, per cui per evitare questo, per evitare di beccarsi casomai 40-50 euro di multa, non ne vale la pena, preferisco un quarto d'ora scendere, accompagnarli e risalgo qua. Infatti, no, io ho sentito da poco un collega che è andato lì appunto a Platamona, alla rotonda, non ha trovato posteggio inizialmente lì sulla parte comune di Sosso, quindi si è inoltrato verso il comune Porotoso, praticamente dove c'è la rotonda, e ha pizzicato 75 euro. Quindi c'è così, mi ha fatto la giornata, ho volato la famiglia al mare, sono stato benissimo, e quando sono rientrato ho perso tutto quello che ho risparmiato. Sì, stanno mettendo multe a Napoli, perché inizialmente ha visto che ci sono i posteggi a pagamento su marciapiede tutti tracciati di blu. E dall'altra parte lo stesso, spina di pesce, tutti tracciati di blu, qualcuno ne ha approfittato a mettersi tra una macchina e l'altra in doppia fila, visto che magari la macchina era dell'amico, eccetera, eccetera, bloccava l'accesso al tram, ecco lì che i vigili stanno molto più attenti. Un po' fa invece io entravo, non so dove, proprio nella pinetta, praticamente nel tratto che c'è tra la chiesetta, quella campestre, che praticamente c'è solo l'altare, e la strada provinciale, quell'avvallamento lì, e prima si poteva accedere molto più agevolmente, la macchina la mettevo puntualmente lì, poi hanno iniziato a mettere multe anche là. Salvatore, ti faccio pagare lo smitter, ordinami lo smitter da EB, te lo faccio pagare. Insomma, dove ne devi comprare smitter a Valu? Ma lui proprio va a smattere. Attenua lui. Faccio l'attenuata adesso, tu ce ne vuoi 50 attenuato, e lui è sempre quasi a fondo. Beh, dalle quei 20 dB e già non si rompe lo smitter, non si rompe così facilmente. Sì, Salvatore, è così, c'è un giro un po' particolare lì, tra l'altro c'è un attrito tra comune di Porotose e comune di Sorso, e quindi sai, o interviene uno, interviene l'altro, e stanno facendo sempre un po' di casino, però chi ci piace siamo sempre noi. Avanti Salvatore, prima. Ciao Luca, carissimo. Ciao Salvatore, grazie, buona domenica. Mi stai spaccando tutto. Vabbè, ripeto, se apro la finestra e ti chiamo mi senti, a mille per mille. Sì, io ti credo, io che ho attenuato da quel giorno e mi arrivi continuamente in fondo scala e siamo troppo vicini. Sì, sono ADB attenuato, pensa tu, Claudio 950 attenuato, vabbè Claudio è Claudio, dai, non bisogna fare paragoni. A parte il fatto che anche posizione, lui si fa sentire. Guarda, non so se tu hai avuto l'occasione di ascoltare Claudio, cioè tu parti da qua, da Sassari, no? E lo senti forte e chiaro. Tu arrivi a Pordotone, cala il segnale, ma la rete è sempre la stessa. Sembra che c'è sempre vicino. È un buon compagno di viaggio, vero qua. Bella qua su, ho sempre dato il massimo, ma ti dirò che anche la via Pasqua non era male, era una bella zona, fosse un po' aperta dei varchi, ma tu immaginati Luca che io l'altro giorno ero alle 11:30 di notte, ero sul canale 5 e stavo un po' scazziando sinceramente con la RAN 48, avevo sì il lineare attaccato, 200 watt, sentivo questa modulazione in sottofondo ed era Domenico che stava uscendo da Olbia. Quindi già dalla Piana dei Monti mi sentiva, però sinceramente io lo sentivo quasi zero, dicevo sempre chi è che chiama, e lui continuava a rispondere, ma io non lo capivo, non posso dire balle. Come è iniziato ad avvicinarsi, quindi ha superato la Piana dei Monti, che stiamo parlando di un centinaio di chilometri, la Piana dei Monti, e quindi ha iniziato a fare la collina lì di Monti, allora ho iniziato a sentirlo piano piano, segnale 1:30, 2, e mezzo, ti sentivo fortissimo da quando sono uscito da Olbia, proprio dalla rampa dell'uscita dell'aeroporto. E lì per lì ho detto, ma io con Olbia non è che abbia molta cosa, però dice ti sento fortissimo. Insomma l'ho preso da lì, l'ho portato sino a Sassari, si sta a perdere un attimo. Nel momento in cui parlavo con Domenico, mi ha chiamato un carissimo amico che modulavamo io, Walter, Vittorio Giove, Antonello Recio, perché anche Antonello quando era in via dei Tede aveva una bellissima posizione, maledetto, pompava la grande, facevamo dei grandi casini. E mentre stavamo lì, a un attimo ho sentito un'altra chiamata e stava chiamando Giovanni Cavallino, non so se, infatti, c'era anche Antonello, gli ho dato i saluti a Giovanni Buonapini perché erano molto molto amici, da Villa Cidro, e noi parlavamo tutti i giorni con Villa Cidro qua, tutti i giorni, io, Vittorio Giove, dalla sua posizione, non c'entra nessuno, e Walter Diabolik. E infatti sono rimasto così, ho detto no, non può essere, e mi ha detto che ci ascolta sempre, sente anche un altro molto molto basso, e sicuramente deve essere coso Antonio Falchetto. E Antonio c'era un baracchino da 10 watt, se dovesse avere una radio come la mia, da quella posizione, è allucinante Antonio, perché io sono andato a Budujo da poco e l'ho sentito segnale 7 a Budujo, con una radio fortissima. Sì, sì, no, ci credo, no, vabbè. Diciamo che la posizione che hai, là, sarebbe il colmo dei colmi. È una bella posizione, ha voglia, e poi forse attacchi ancora meglio. Che beh, sembra che sei lì a Olbia. Vabbè, già domini bene da lì, dai. Cosa ti volevo dire? L'altra volta mi ha accompagnato Luigi, ma sì Luigi, Mauro, a Olbia, andava a prendere quella là, quella persona che sei tu. Dopo Tramazza mi sembra, poi si chiama, ma no, è Tramazza, poi c'è quel bar, boh, lì l'abbiamo perso a Falchetto. Perché lui c'ha la parte praticamente, scusa Salvatore, lui c'ha praticamente la parte della collinetta di Scala di Ciocca, quindi molto più basso di me, io sono molto più alto, che le dà un po' fastidio, ma c'è un varco verso la zona proprio Pattara, Budujo, Thieri, Alessandri, tutta quella che è allucinante. Mentre invece io rimango più alto, vado proprio liscio, cioè Scala di Ciocca la supero completamente, lui no, e quindi Tramazza che già sta iniziando a scendere, quindi si è già nella zona di Macomer, quindi la piana, stai andando per la piana di Campella, lui ha un po' di difficoltà, ma se sali verso alto, a Bonora ad esempio arriva quanto a me, Antonio, a parità di watt, arriva quanto a me, proprio segnale uguale al mio, 8 e 8, a Bonora, con 10 watt, io ho provato con lui 10 watt e 10 watt, 8 e 8, se poi aumento, metto a 50 watt, allora già supero 9, però parità di watt, 8 e 8, è una buona posizione Antonio, cioè, buona, tra l'altro cioè, non c'è l'antenna che ho io, l'antenna molto bassa, se dovessi mettere una manto, ma non ha il cavo io, sai, sono tutte cosettine che influiscono, ma io penso che a Sassari posizione ottimale ci sia anche quella, molto molto bene, arriva da tutte le parti Antonio, se lo senti nel Tronghiero fa paura, a Pinangelo arriva a 9.10, 9.10, 9.20, dipende da cosa sta usando Pinangelo, perché a volte c'è il dipolo e pensa che stia arrivando l'antenna, qua a Pinangelo con l'antenna, con la manto me arriva a 9.20, 9.20 pieno. Sì, sì. Infatti, a proposito di Pinaggio, quando vuoi che ha bisogno qua, fammi un sapere, ci facciamo un salto, mettiamo a posto l'antenna. Sicuramente ha problemi di antenna. Comunque, ce l'hai del numero cellulare, no? Ma glielo ho già detto ieri quando l'ho sentito, poi lui ha verificato e effettivamente ha riscontrato un problema all'antenna lui. Infatti, siccome l'hanno operato un dito del piede, ma detto qua io se non ci fosse detto non ti preoccupare, tu mi fai un colpo di citofono, le ho detto io vengo con la squadra che tu conosci, io Luca e un'altra persona, e mettiamo a posto tutto, non c'è problema, se c'è da cambiare la puoi mettere nuova, io ci metto 10 minuti, perché è terrato, capito, ma sono tegole, quindi è facilissimo, lavori bene, si abbassa, uno prepara l'antenna, la vulcanizza, tutto pronto, si innesta, vamos. E infatti mi ha detto, se faccio così come calma questo tempo, perché dice c'è sempre mezzo, effettivamente già è vero. Dice, finite queste vacanze, insomma, magari dopo fare agosto, c'è che riaprono le aziende, compro un'antenna nuova e la metto nuova. Così mi ha detto, e così ti sto dicendo, col cavo nuovo anche. Non c'è problema, se mi fa uno squillo, se mi prendi, andiamo, mettiamo a posto l'antenna, poi se la cambiare non c'è problema, si fa, va bene, avanti. Ben ecco che. Avanti, Salvatore. Già prenotata avete? Oh, stavo infatti chiedendomi lì alla in Cambusa cosa che stanno combinando. Vado anche a chiedere adesso, scusate, perché mi sa che stanno battendo la fiacca le nonne. Battendo la fiacca? No, qua ancora non è pronto. Sto scaldando il materiale che serve per mettere sotto i denti. E comunque fretta non ne ho, mi sto rilassando un attimino. E dopo si va a mangiare un boccone, un riposino, e poi stasera sarò tutta la sera in radio, tanto non ho grandi progetti. Può darsi anche al fresco, ma le faccio una passeggiatina a Porto Torres, così mangiare un gelato, ammazzare un po' il tempo, ma a quell'ora io dopo cena mi siedo qua, non mi muovo più. È una cosa che ormai ho preso di vizio, ho salvato, forse perché sono un po' a mio agio, sai, c'è la mia stanza, mentre prima in un'altra casa era un po' ristretto, qua sulla mia stanza, quindi chiudo la porta, apro la finestra, accendo il baravà e quando c'è fresco non ti muovi più, eh. Cappa. No, io spero il prossimo anno di riuscire a fare una spesa e una elevazione, sicuro che ci hanno un lampare, e così baracco tutto quanto qui dal salone, perché è un posto riservato, e più nemmeno quello che poche pretese, cioè qualche metro quadro dovrebbero mettere tutte quante le cose, con il tuo ordine, con la tua disposizione, sai che puoi ritornare dopo un anno, dopo 10 anni, e le ritrovi così come le hai lasciate. Oh, cazzo! Dimmi tu. No, niente, ti volevo dire, se scendi mi trovi anche a me giù. Tu a Carletto, a Silvana, c'è Piera, il marito se lo conosci, boh. Ci trovi giù, scendo con Stefano io. Vai qui. Alle 8 inizio già a prepararmi ancora a fare una doccia. Mi metto. Poi verso l'8 e mezza, almeno un quarto passa a prendermi. Se vuoi scendere, noi ci troviamo, e fanno la rostita. Ah, giù, ho capito. Sì, così mi stava dicendo anche l'aria che voleva scendere stasera. Ho visto che ieri si è messo a quello con le sue amiche di Porto Torres. Mi ha mantenuto lo gabo, ma no. Non mi muovo più da qua. No. Mi sta uccidendo, vuole andare lì a abitare, ma basta, ho fatto già 2 passaggi e sono messo anche una barca di quattrini, perciò io rimango qua. Se lei vuole andare, non ci sono problemi, io la trovo una casa e sta lì tranquilla e serena, però io momentaneamente da qua non mi muovo. Ho affrontato troppe spese, tanto non te la pagano, e qui e là. No, Salvatore, io non ce l'avevo, la stanza, Luca si ricorda, quando ero su, sempre qua, però ero al 9° piano, prima adesso sono sceso al 2° E in pratica ho ricavato un bel angolino che si vede nella foto che c'è su qrz.com o sul sito dell'Ari Sassari, dove ci sono le foto con i nominati dei radiomatori. Quello angolo proprio ricavato, una risega, insomma, di muro, diciamo, ormai di a muro, io l'ho sempre lasciato così, ho detto lo faccio, poi alla fine ho detto, ma faccio ormai di a muro. Ma mi faccio dei ripiani e metto e faccio una sala radio incassata nel muro, ed è venuta una bella cosa, giocavo ed è venuta una bella cosa. Non era molto arieggiata perché non c'era finestra, però io non ci fumavo, e lasciavo la porta del salone aperta, la finestra della camera da letto di mia figlia, e quindi un po' girava l'aria e non stavo male, avevo ricavata così proprio perché nel salone mia moglie non voleva vedere niente. E tra l'altro lì Luca era venuto, non si vedeva un cavo, non si vedeva niente, avevo fatto tutto sotto traccia. Qua invece, in questa nuova la casa c'è una stanza in più, sono 3 stanze da letto, e una era una stanza. chiamata, diciamo, in più per gli ospiti, per un secondo figlio, eccetera, che sono due camere letto grandi, più una un po' più piccola, ed è 6 metri per 3,50, e lì ho fatto completamente sala radio, solo sala radio, esclusivamente sala radio. Ho chiamato a Giulio Dollaro, il falegname, è venuto, mi ha fatto una L dove io ci sto in mezzo, e ci sono tutto il posto anche dall'altra parte, dove è 5,70 m di scrivania girata ad L, fatta completamente nuova, fatta bene, veramente molto bene, un grande lavoro, dove non c'è un cavo per terra, non si vede niente, non, assolutamente fatto bene, anche perché se non fosse così mia moglie mi avrebbe già buttato fuori. Ok, no, io ho la scrivania qua nel salone, ha un cacchio che non so quanto è grande, aspetta che mi conto le piastre. No, questa è fatta da un signor falegname, veramente, progettata da lui e fatta da lui, io l'ho portato qua e ho detto questa è la stata vuota, io devo realizzare questo e questo, ok, faccio io, fai tu, costruita proprio, costruita, l'unico che l'ha vista in costruzione è nata di Alfa 1, e quando l'ha vista finita ha detto no, non possono essere queste delle tavole accoppiate, cioè complete come veramente in una fabbrica ti costruiscono delle basi, rifinita, bordata, bella, molto molto bella, poi aggiunta perché c'è una base centrale, poi l'altra io l'ho voluta a L, quindi accoppiata e girata, e c'ho da una parte una sezione tutta CB e l'altra sezione tutta amatoriale, con computer, cartine, orologi separati, con orario GMT, quindi un'ora indietro per i DX, tutti i diplomi, tutte le cose, cioè i faretti, elettricità, hanno fatto tutto l'impianto luci a faretti, un bel lavoro, un bel lavoro, un grande lavoro. E beh, se non facevo così non potevo stare come a volte sto ore e ore, capito? Perché anche io ero accampato e quindi le mogli, i figli fermano sempre lì, si abbassa, non sento, qui era no, qua io chiudo la porta e vado alla grande, infatti uso anche il baracchino a una certa ora, dalla 48 che c'è l'ecco lo posso usare adesso perché non disturbo, mentre prima era sempre dentro l'armadio. Cappa. No, dunque, allora, la sala, la nostra sala è 6,50 per 4,80 praticamente, e io ho un angolo dove ci sono i scooter, stampanti, eccetera, eccetera. No, il computer per ora lo sto lasciando lì, anche perché vicino c'è tutta la libreria con i miei manuali, mi serve lo spazio, mentre la radio l'ho messa in un tavolino qua vicino alle porte finestre per poter infilare il cavo quando trasmetto, e in modo tale da non fare altri buchi, perché do funzioni provvisorie, mentre non avendo ancora le idee ben chiare come mettere le cose, era inutile, anche perché mi è costato una fatica immane fare la ristruzione. Perché poi tra l'altro la ristruzione interna, muri di muratura e la posa in opera dei pavimenti, praticamente me la sono fatta io da solo. Quindi sinceramente mi piacerebbe vedere degli altri buchi o insomma rovinare tutto il lavoro che ho fatto, perché ho messo all'aria tutto quanto, era una cosa indecente, tutto l'impianto elettrico, mandare il canale, quindi a dare e quant'altro, però spero di riuscire il primo anno ad avere proprio un ambiente separato dove poter mettere tutte quante queste cose e le strade montate definitivamente, perché anche questa storia di togli e metti il cavo, fai una seccatura, poi esco fuori nel terrazzo, lo riarrotolo per non lasciarlo così sciolto per terra, e poi finalmente potrei ottenere una dove mettermi, oltre a tutti quanti i manuali, anche tutti i vari DVD di sviluppo che ho, che ho separato in un altro ambiente ancora, perché non, chiaramente qui non andava bene metterli, il salone non, di gusto bisogna riuscire a tenerlo, e niente, questo è come sono sistemato io, ma al momento permette almeno di poter parlare, passare qualche oretta agevole con voi. E niente, qui. Vabbè, quando c'è lo spazio, soprattutto te lo dico per esperienza, quando è lo spazio tuo dove puoi decidere fare, disfare quello che ritieni opportuno, quindi così chiamata una vera postazione di comunicazione, è un'altra cosa che io te lo dico per esperienza, ero sempre accampato, l'unica che era un po' indipendente è sempre qua, dove abito adesso però su, ti ripeto, avevo ricavato questa risega dal muro dove c'era la Romania Mura, avevo fatto delle basi ed era venuta una cosa bellina, anche se non mai finita, però mi consentiva di stare un po' in santa pace. Qua è completamente diverso. Qua io ho la linea DSL con telefono addirittura qua in stanza, perché quando è venuto Tiscali mi ha detto dove vuole, allora la presa iniziale da là, mi portate il cavo qua dentro e mi fate la linea qua dentro, poi una è nel salone e una è nella camera da letto. Quindi perciò il cavo dalla base centrale me l'ho portato qua, sotto canale, non si vede assolutamente niente, non c'è niente, ripeto, non c'è un filo per terra, niente. Quindi ho la linea DSL qua in stanza con telefono, se sono in radio posso rispondere tranquillamente al telefono senza due linee separate di comunicazione, una con la portatile e una con la base fissa che qua dentro è venuto, ho fatto fare insomma quello che mi serviva. La presa direttamente a 8 dall'elettricista, non con ciabatta ma con stacco direttamente dal salvavita qua. I kilowatt li ho fatti aumentare da 3 a 4, 4 kilowatt per gli amplificatori, sempre tutto riportato qua, con un contattore separato. Mi hanno insegnato queste cose, quindi io l'ho messo subito in atto, una barra di rame che mi ha dato un amico all'Enel da 10 cm per 30 lunga, tutta forata in fuori da 4, ed è tassellata al muro con i tasselli lunghi, e i gommini, e lì ci sono attaccate tutte le masse giallo-verdi delle radio, tutte, ce ne sono 2, 4, 6, 8, 10, tutte con quello da quei cavettini gialli-verdi, quindi ogni radio ha la sua massa lì, li scaricano lì, non me ne frega niente, a parte naturalmente la massa del pad. Poi Luca l'ha visto, qualche altro l'ha visto, no? Io non vado a queste... Si dice non si va alla spese, ma io non vado, non stiamo parlando di spese qua, perché le spese sono sempre eccessive, ma io guardo la sicurezza, perché sempre di corrente si parla. Ma la massa è comunque la massa generale dell'appartamento, cioè poi quella barra serve per veicolare la massa nella terra del palazzo. Esatto, l'esercizio ha portato sotto canala. C'era già appartamento per appartamento, però era molto fine, lui l'ha cambiata, l'ha messa quella grossa da 2,5, mi pare, adesso mi ricordo perché era da 1,5, l'ha messa da 2,5, che è più che sufficiente per questo lavoro, e l'ha tassellata al muro, dove poi lui ci ha messo un occhiello, ma non si vede, è dietro completamente il pannello delle radio, dietro la base, dove lui ha messo un occhiello, ritassellata la barra di rame, con dei distanziali da 2-3 centimetri forse, neanche, sono dei gommini grossi, tassellata lì e poi nei fori che praticamente, si è pronto arrivo, praticamente nei fori che ci sono tutti gli occhielli con le varie trecce di massa, cioè i vari giallo-verdi che arrivano da tutte le radio, e lì va a scaricare, infatti. Io mi sono stato a casa di un amico, ho acceso la radio, ce l'avevo accesa, mi sono appoggiato e mi ha dato la scossa. Qua scossa non ce n'è, bisogna fare cose bene, insomma, perché, ripeto, sempre di corrente si parla, quindi va bene un baracchino, va bene due baracchini, tre baracchini, però qua abbiamo tensioni e nudi che superano di 800, anche 900 mA, perciò... Con una modica così bisogna stare attenti, perché se c'è un rientro di RF può partire tutto in aria e ci è rimesso la faccia e il corpo, perché prende fuoco. Una modica di una valvola 800, 900 mAh, stiamo parlando di kilowatt, e quindi dobbiamo stare molto attenti. L'EK, sì. Io purtroppo ho dovuto utilizzare una terra non proprio da manuale, ma tant'è di necessità virtù, perché facendo tutti i lavori di ristrutturazione ho visto che chiaramente essendo una palazzina comunque vecchia degli anni 60, mi sono accorto che chiaramente non c'era alcuna massa. Al tempo stesso, siccome ho visto che c'è un tubo esterno di una vecchia condotta di gas che era stata messa chiaramente in disuso, tutta quanta slacciata, che però parte dal terreno e segue il profilo del palazzo, e la massa l'ho attaccata lì. Entrava questo tubo da 5 pollici in una nicchia in un bagno, e poi probabilmente nessuno ha mai voluto prendersi la briga di smantellare tutto quanto eccetera eccetera, e fatto sta che ho preso, visto che è inutilizzato, questo bel tubo che entra dentro il terreno e segue tutto quanto il profilo della parete del palazzo, mi sono attaccato a quello. E sì, infatti anche così sotto non ci sono problemi. Ok, se ci sei mi fa piacere ricontinuare il questio dopo, come ho detto anche ad Antonio, anche per Luca, dai, ci sentiamo dopo che vado a mangiare un boccone, e c'ho gente così mi fa compagnia. Ci sentiamo dopo, se ci sei Salvatore, io sono comunque tutta la sera in radio. Grazie delle due chiacchiere e ci sentiamo dopo. Buon pranzo e saluti a casa. Ciao anche a Luca. Molto volentieri, hanno chiamato anche me alla tavola calda. Ok, ci sentiamo più tardi. Luca, ci sei o sei anche tu in carica? E Luca sarà già in carica. Dai, ci sentiamo dopo sabato, mi fa piacere, magari facciamo altre due chiacchiere nei 20 al discorso. Ciao, buon pranzo dopo. Grazie, ciao, buon tutto a tutti quanti, a tutta la famiglia. Ciao, più tardi. Ciao, grazie anche a te. Bene.